Mix 24. Storie di star. Lo hanno definito il primo comico che ha cambiato il modo di far ridere. È Walter Chiari, attore di prosa, di rivista, di cinema e soprattutto di televisione. Studio 1, Canzonissima, La prova del 9, La via del successo. Quella di Walter Chiari è stata un'esistenza generosa e spendacciona, vissuta per eccesso. Sempre sotto i riflettori e sempre al fianco di donne bellissime e famose. Is it getting better? Walter Chiari ha avuto in dono talento e simpatia ed è stato anche molto amato dalle donne. La sua intensa vita sentimentale, piena di scandali e di intrecci amorosi, ha riempito per anni i rotocalchi. You got someone to blame. You're sad. Won't love. Già nei primi anni 50, Chiari è protagonista di una love story da prima pagina. Nel 1951 l'attore incontra Lucia Bosè sul set di un film di Mario Soldati, È l'amore che mi rovina. Lui ha 27 anni, lei 20, ed è un colpo di fulmine. Buscame si tu lo quieres, llámame a viva voz, ma sabrás por lo presente. La commessa di pasticceria diventata Miss Italia si fidanza con l'ex pugile figlio di immigrati, l'attore italiano più pagato del momento. È una storia che fa sognare. Dopo alcuni anni di fidanzamento, Walter e Lucia si preparano al matrimonio, ma sulla scena irrompe un torero, Luis Miguel Dominguín. Per Lucia Bosè è l'incontro della vita, per il torero anche. Nel giro di pochi mesi la fidanzatina di Walter diventa la futura signora Dominguín. Così Tatti Sanguinetti, biografo di Walter Chiari, racconta quel momento. Walter perde la donna con un tipo di uomo che è il contrario di lui, l'uomo che le donne le trapana, come si trafiggono i tori con lo spadino. Perché io chiedo che sia franca e real. Questo idillio mette fine alla storia tra Lucia e Walter e interrompe anche l'amore tempestoso tra Dominguín e Ava Gardner. Ad Ava questo finale in fondo non dispiace. Sta vivendo una fase di separazione, ma in fin dei conti è ancora la signora Sinatra, la moglie di Frank. Ava Gardner, proprio lei. Da Singapore a Ciampino. Sta facendo davvero il giro del mondo. Nel 1955 Ava Gardner arriva a Roma per girare La Contessa Scalza. C'è anche Walter Chiari. Tra i due scoppia la passione. Inizia così una relazione piena di colpi di scena che fa la fortuna dei paparazzi. Enrico Vaima, autore televisivo, Elsa Martinelli, attrice, amica, descrivono Walter Chiari. No, non era un Latin lover, era però uno che piaceva alle donne. Non aveva un grande spirito di iniziativa, non era un corteggione, era un corteggiato. E in questo, devo dire, è molto fortunato, giustamente, perché era un uomo affascinante. Walter aveva un sorriso fantastico, si faceva perdonare tutto. Nella sua autobiografia, Ava Gardner così parlerà di lui. Walter era simpatico e tutti sanno quanto possa essere pericoloso. Era divertente, aveva fascino, un buon carattere, un'intelligenza vivace. Era insomma un compagno molto piacevole. Mi seguì per tutta l'Europa, anzi, per tutto il mondo. Insieme ad Ava Gardner, per 4 anni Walter Chiari entra a far parte del jet set internazionale. Fa incontri e stringe amicizie importanti. Verso la fine degli anni 50 è l'unico attore italiano a vivere la mondanità cosmopolita. Ce lo raccontano il giornalista Michele Serra, Elsa Martinelli e il figlio di Chiari, Simone Annichiarico. In questo momento sta facendo il suo ingresso al Palazzo del Cinema Walter Chiari. C'è un segmento breve e meraviglioso della storia di questo paese che è il suo lungo dopoguerra, insomma, tra il dopoguerra e il primo boom c'era una vitalità. La vitalità è adrenalina, è carne, è materia, è strade, è autosportive, è società. Chiari è una delle grandi incarnazioni di questo periodo, secondo me felicissimo. Era un divo, in un periodo in cui divi non ce n'erano, perlomeno non ce n'erano in Italia. Il divo per noi era un qualcuno all'internazionale. e Walter era anche internazionale. Comunque Walter poteva saltare su un aereo a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, in qualsiasi città si trovasse. Io l'ho incontrato mille volte, sempre correndo perché era sempre in ritardo dappertutto. Un giorno mi dice: Walter, have you been boxing? Hai boxato, premetto, amicissimo di Ava che ha fatto due suoi film. Dice: have you been boxing? E gli dico: sì. Do you feel a challenge me? Dico: ti senti di sfidarmi? Dico: andiamo. La moglie Mary, non accettare, he's vicious. Ma no, dico, andiamo, dove? No. E lui fa: andiamo nel bagno, in inglese, così se corre del sangue lo laviamo subito. Walter Chiari subisce i capricci e le scenate della diva, ma col tempo la storia d'amore con Ava Gardner diventa sempre più difficile e faticosa. Si chiude in Australia nel 1959, quando Chiari si esibisce in una beffarda imitazione di Sinatra, imitazione che fa infuriare la Gardner. È la fine di questa chiacchieratissima storia d'amore. Ava è pronta per l'ennesima volta a ritornare fra le braccia di Frank Sinatra. Per tutti gli anni 60 e 70 c'è stato un vortice continuo, un susseguirsi di amori, alcuni presunti, alcuni veri, altri semplici flash di paparazzi a caccia di scoop. Insomma, per molti Walter Chiari è un pericoloso rubacuori. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Lucia Bosè, Mina, Marisa Maresca, Anita Ekberg, Elsa Martinelli, Maria Gabriella di Savoia, Anna Magnani, Delia Scala. Sono solo alcuni degli amori veri o presunti attribuiti a Walter Chiari. Sentiamo il racconto di Elsa Martinelli. Walter era talmente dolce, affettuoso, ma non solo con me, con tutta la mia famiglia. Faceva questa piccola casetta a Fregene dove mi portava, mi insegnava a giocare a tennis, mi dava dei libri da leggere. Era quello che lui nella sua testa pensava come fidanzatina. Non gli piaceva l'idea di una ragazza come me, forse nella vita un giorno, ma insomma il destino ha fatto che proprio fossimo due persone che non si sono mai incontrate per innamoramento, voglio dire, non ci siamo mai innamorati, io non mi sono mai innamorata di Walter. Io ho avuto una storia con Anna Magnani, abbiamo avuto una storia, se ne sono accorti pochi, non è mai stata discreta nostra. Anna Magnani era più bella, era una donna bella. Nel 1969 il single più ricercato d'Italia cambia idea e sposa Alida Kelly. Ancora una volta l'amore sboccia con una compagna di lavoro. Walter Chiari ha finalmente deciso di mettere su famiglia, ma è un altro amore tempestoso e destinato a durare poco. Un bacino in televisione! Vai, sì. Pardon. Ci siamo lasciati ripresi e poi ci siamo sposati. Lui mi telefona dall'Australia, questa è una soap-opera proprio, stava facendo un film vestito da prete, mi ha detto: se mi sposi mi butto dentro la piscina. E io naturalmente ho detto sì, e niente, la sera stessa sono partita e ha fatto arrivare un aereo di linea, c'ero solo io. Cioè, mi sono sposata fuori della chiesa, non c'era più. L'avevano preso, era andata un'associazione non so di che cosa. Io nera, idrofoba con questa torta. Fin qui Walter Chiari e le sue donne. Ma chi è Walter Chiari? Ripartiamo da qui, dopo la viabilità. Mix 24. Storie di star. Bentornati su Mix 24. Classe 1924, Walter nasce a Verona da genitori pugliesi. A 10 anni si trasferisce a Milano, a 14 inizia a lavorare come magazziniere all'Isotta Fraschini. Sportivo, nuota, gioca a tennis, è campione lombardo di pugilato dei pesi piuma. La sua vera passione però è da sempre il teatro. E il debutto, come capita spesso, avviene per puro caso in una notte che da sola cambia il destino della sua vita. Nell'inverno del 44, Walter Chiari è con gli amici al Teatro Olimpia di Milano. L'attore comico è malato e dal palco si invitano volontari a cimentarsi in una sorta di quarto d'ora del dilettante. Gli amici lo spingono sul palco. Walter fa i suoi pezzi forti. L'imitazione di Hitler e la barzelletta del balbuziente. Cameriere? Per favore, mi vuol dare per favore, cameriere. Mi dia un espresso. Per Walter è come un battesimo. Diventa famoso in una sola notte. Maria Maresca, una delle reginette emergenti dell'avanspettacolo, lo scrittura subito. Cambia cognome. Anni Chiarico è troppo lungo per le locandine. Si fa chiamare Chiari. Nel 1950 Walter Chiari si mette in proprio. L'anno dopo, con Sogno di un Walter, trova la sua comicità, che coincide con l'incontro con Carlo Campanini, che diventa la sua spalla storica. Walter ha trovato il compagno perfetto per rifare Fratelli di Regge, Enrico Vaime. I De Regge sono stati geniali nell'inventare questa coppia. Era una coppia straordinaria ed erano indispensabili uno all'altro. Walter ha avuto modo di vederli, perché dei De Regge non c'è niente, ma lui li ha visti veramente, li ha visti in opera e quindi ha preso il meglio. Diciamo che si è appoggiato a delle maschere italiane geniali per l'epoca e l'ha rifatte. Io ho andato dal dottore. Sono andato dal dottore. Che c'ha? Io? Niente. Perché hai andato dal dottore se non c'è niente? Perché sono andato. Tu sei andato dal dottore, ma come parli? Nel 1953 una geniale coppia d'autori, Metz e Marchesi, gli confeziona un cabaret rivista su misura, un susseguirsi di scenette satiriche sui luoghi comuni della società. Walter Chiari scende tra il pubblico e lo intrattiene. Con lui c'è un ragazzo che canta in siciliano, Domenico Modugno, un posteggiatore che Chiari ha scoperto e voluto nello spettacolo. Come spalle ci sono Gino Bramieri e Bice Valori. Sono un uomo! L'uomo grida il suo diritto! Voglio toccare la tua rotola! Oh. Sì. E di male! Che sarà di me, di male? Dimando! Dimandi! Il dimane, Genevieve, il dimane! E che te frega del dimane? Dopo la parentesi cabarettistica, Walter torna a lavorare al fianco di Carlo Campanini. Nasce la scenetta del Sarchiapone americano, un classico della comicità italiana. A raccontarcelo ancora Enrico Vaime. La stesura originale era di due pagine. Ed era due pagine. Scritta da Terzoli con Walter e si basava su una cosa che avevano visto alla stazione, mi pare di Formia, un ambulante che urlava Sarchiapone americano e vendeva non so bene che una cosa, però la gente attirata dal nome, da quello è nato questo sketch. Secondo me niente di grave, ma poteva anche essere peggio. Scusi, ma come ha fatto? È stato il Sarchiapone? Scusi, chi è stato? Il Sarchiapone. Sarchiapone? Sarchiapone americano. Ho messo la mano lì, nella gabbietta, lui zazzazza, e lì, guarda, momento lo sta. Il Sarchiapone. Ah, americano. Sì, americano. Beh, loro certamente conosceranno, vero, il... Sì, come no? Quello che non conosca è... Sarchiapone americano. L'animale... Basta, io Giuseppe Puni conosco. Lei l'ha capito. Porco subito l'ho capito. E da che cosa l'ha capito? Dal modo di... modo di camminare? Che camminare? Non capito. Come Giuseppe Puni sta in un cammino di stupido. Dal modo di saltare, come saltava con le zampe. Che? Con le zampe? Come le zampe? Quattro. Che qua? Tre, due, una. Cioè, che bestia schifosa, però non c'è. Dico, no, dico, non c'ha zampe. Le ali. No, le ali, poi sono le ali. Le ali, fedeli, forti, le ali. No, le ali, sentite poi sono le ali. Sono le ali. Vabbè, noi sono le ali, no, sentite poi le pinne. C'è le pinne, no, le pinne. Le pinne, le pinne. Sono che bestia schifosa. Bene, io l'ho visto durare 10 minuti, 20 minuti e 40 minuti, cioè l'intero secondo tempo dello spettacolo. Bene, reggeva, 40 minuti, reggeva, perché era straordinario, perché poteva andare avanti a vita. Era una macchinetta perfetta e lui era perfetto. È irresistibile perché non è solo uno sketch comico, è una scenetta di costume, è satirica. Cioè l'italiano che non accetta di non sapere una cosa. Nel 1956 il grande salto Walter Chiari viene scritturato dalla ditta Garinè e Giovannini e passa dalla rivista alla commedia musicale. Va in scena Buonanotte Bettina, primo attore Walter Chiari, al suo fianco Delia Scala, una coppia irresistibile, un successo trionfale. C'è qualche cosa in te che va diritto al cuore, simpatica sei tu, un certo non so che, un'onda di calore, simpatica sei tu. Tu non mi fai pensare sereni, parondini in volo. Nel 1963 il ciclo Fortunato con Garinei e Giovannini continua con Il gufo la gattina, dove ha come partner Paola Quattrini. Infine, nella stagione 1966-67, è con Rachel nella popolarissima commedia di Neil Simon, La strana coppia. E se domani io non potessi rivedere te. Scusa Renato, scusa tesoro. Dimmi. Uno cerca per un'ora un motivo, lo trova, gli piace, gli serve per deconcentrarsi. Lo canta, tu arrivi, lo finisci, concludi e guasti tutto. Dico tante storie per una canzone, non lo faccio mica apposta, sento la musica. E tu non sentirla, scusa. Non la sento, ecco. non la sento. Mi è un favore, scusa. Va bene. Canto la canzone e lui la completa. Va bene. Le sai anche tutte. Va bene. Allora, in the shadow when I think I sing to you. I due attori sono complementari, Chiari sregolato come sempre, Rachel pignolo e super controllato. È l'ultimo grande successo di Chiari in teatro. Oh mia bella Madonnina, che te brille di lontan, in scidore piscinina. Ti te domina Milan? No, porca miseria, questo no! Dico, questa è la canzone mia, è milanese, e avevo 7 anni quando la cantavo io. Vabbè. Sono stato espulso dai Ballilla perché mentre cantavano Lino, io cantavo Mia bella Madonnina. Io cantavo Mia bella Madonnina. Più che il primo attore in senso tradizionale, Walter Chiari è una figura del tutto insolita per i nostri palcoscenici. Balla, canta, racconta storielle, intrattiene il pubblico con monologhi e dialoghi divertentissimi. Com'era inevitabile, il suo talento approda anche in televisione. È il 1958, il programma si chiama La Via del Successo. È nata una nuova stella del sabato sera. È proprio perché ho ragione malato che faccio quel che faccio, addio! Walter Chiari ripropone in televisione tutto il suo repertorio di scenette. È un ragazzaccio che parla un'Italia non più povera, mescolando dialetto e raffinatezza, nonsense e smorfie. Le sue esilaranti parodie degli stereotipi del cinema americano ottengono un grande successo. Enrico Vaime ed Elsa Martinelli. È stato il primo e più grande talento televisivo. Lui è nato come intrattenitore, era un grande intrattenitore, perché aveva una disinvoltura che non era conosciuta da noi. Quelli che venivano dal teatro di solito erano ingessati, si vestivano anche in maniera incredibile, cioè si presentavano con lo smoking anche la mattina. Questa eleganza di Walter Chiari che nessuno più ha avuto, perché a parte essere un bellissimo ragazzo si muoveva veramente come un fotomodello poi alla fine, perché senza volgarità, mai un momento di volgarità. E Walter Chiari, attore di prosa, di rivista, di cinema e soprattutto di televisione. Sentiamo cosa dicono di lui due autori televisivi, Michele Serra e Enrico Vaime. Per quelli della mia generazione, Chiari è soprattutto la memoria della televisione di casa, insomma, dei sabati sera e dei suoi monologhi, in uno spazio tutto sommato vuoto. Se uno riguarda gli Studio 1 dell'epoca, la cosa più sgomentevole e più moderna, aggiungo, era l'assoluta sobrietà dello spazio televisivo. La televisione era un luogo molto stilizzato, molto, molto signorile, se posso usare questo termine. C'era molta attesa per quando arrivava questo signore che era un affabulatore straordinario, sorprendente oltretutto, cioè non si sapeva mai con precisione di cosa avrebbe parlato, come avrebbe svolto l'argomento, era una specie di, come dire, improvvisatore istituzionale. Aveva capito che la telecamera è un qualcosa che può infastidire e quindi cercare il profilo migliore, cercare la luce, era un qualcosa che ingessava e quindi si muoveva scioltamente ed è stato l'unico a non aver paura. Quando lui per esempio incontra Sondra, poi perché Sondra? Lì c'è un errore, si vede che l'hanno corretto, Sandra sarebbe. Io da allora dico Sondra, Corla, Moria, Giosoppa, e oramai, perché? Il carisma dell'uomo solo su quattro assi che racconta, e racconta a oltranza, perché Chiari era un oltranzista del racconto, tra l'altro con questa prodigiosa capacità di andarsene per stradine laterali, fare incisi, aprire parentesi e riprendere sempre il filo. Sondra, e vabbè, e lui, quando vede lui vede Sondra, che la vede per la prima volta, ricordate l'espressione bella, poetica, di rapimento, di estasi, no? Così no? Non solo, ma poi è la varietà, fa paura la varietà, quel ragazzo lì fa paura, è una specie di prisma che riceve raggi di sole, ogni piccola rifrazione di un sentimento, anche minimo, così, come cambia. E invece poi quando la ragazza sembra che in fondo non gli voglia bene, e allora c'è quel sospetto lì, l'espressione cambia ed è così. Un comico di solito in Italia ha una dotazione lessicale di 5.000 parole. Grosso modo, facciamo 6.000 per i più svegli. Lui ne conosceva 10.000 e le sapeva usare. Questa era una prima, ma era una marcia in più vera. Intanto era un ragazzo coltissimo e questo certamente veniva fuori anche nei suoi sketch, dove citava da Shakespeare a Jung. Di conseguenza voglio dire tutta una preparazione culturale che l'ha aiutato anche moltissimo ad essere diverso dai soliti comici. Parlava un italiano magnifico, anche come ricchezza di vocaboli, come sintassi, cioè se era un autodidatta tre volte chapeau, perché accidenti, aveva imparato bene. Un signore come soviesatore, non so chi che entra, bussa ad una porta a Napoli, la porta si socchiude, un bambino così si affaccia con la canottierina a fil di pancia, no? Con la pancettina nuda, la canottierina così, un bambino un po' spettinato con gli occhioni grandi, dice che volete? E quel signore, scusa, guaglione, per favore, mi fai parlare con tuo padre? E il bambino, mio padre, quello è uscito quando è entrata mia madre. Va bene, allora fammi parlare con tua madre, chiama tua madre. E no, mia madre, quello è uscito quando è entrato mio zio Carmelo. Ah, ho capito, va bene pure lo zio, gli spiego io, dammi lo zio. E no, lo zio non c'è, quello è uscito quando è entrata zia Nunziatina. Va bene, fammi parlare con zia Nunziatina, su, gli tengo presso. No, zia Nunziatina, mi dispiace, quella non c'è, quella è uscita quando è entrata mia sorella. E chiami tua sorella. E neanche quella, cioè, mia sorella è uscita quando sono entrato io. È la miseria! E che è questa, una cabina telefonica o una casa? No, la casa è quella là, questo è il gabinetto. Credo che i suoi compagni di lavoro spesso lo detestassero perché sforava in maniera, credo che abbia sforato a volte di 10 minuti, 12 minuti, 15 minuti, tutte cose che adesso non esisterebbero più. Credo che questo gli abbia anche a un certo punto nuociuto, cioè la sua carriera ha avuto anche qualche intoppo, qualche problema, qualche non invito, qualche ripudio, perché era considerato da questo punto di vista del tutto ingovernabile. Con la storia di Walter Chiari torniamo subito dopo la pubblicità. Per chi ama le tradizioni e per chi preferisce il cambiamento. Per chi vuole tenere la mente sempre sveglia e per chi non rinuncia alle sue passioni. Per chi vuole restare sempre aggiornato anche sotto le feste. Le nostre voci, le notizie, gli approfondimenti e le grandi storie sono con te anche in vacanza. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri da Radio 24. Mix 24, storie di star. Ed è piaciuto subito, ed è piaciuto per tanto tempo a un pubblico enorme, appunto, che andava dai ragazzini alle nonne. Bentornati a Mix 24, Walter Chiari insomma piace a tutte le generazioni, è il comico conduttore per tutti gli anni 60, che rinnova il suo appuntamento con il pubblico della televisione, canzonissima, alta pressione, Studio 1, la prova del 9. Walter è l'attore disinvolto del sabato sera, il migliore nel creare quei testi leggeri e intelligenti. Nella carriera di Walter Chiari manca solo il cinema. Eppure per un attore così completo e straordinario quella del cinema sarà proprio l'esperienza meno fortunata. Tanti film, ma quasi tutti fatti prevalentemente per fare soldi, nei ritagli di tempo, quel che serve per alimentare una vita dissipata e spendacciona ma generosissima. E alla fine, curiosamente, gli unici titoli da ricordare di questo grande comico sono forse solo quelli drammatici come Vanità di Giorgio Pastina. Sentiamo la stessa voce di Walter Chiari e poi suo figlio Simone. Il primo film che ho fatto io l'ho fatto a Milano, era una commedia milanese, diventata poi una tragedia nel cinema, Vanità. Promettevo bene, il primo film che io ho fatto ho preso un nastro d'argento. Vuoi venire via con me? Ti scongiuro, ti supplico. No. Mia madre, quando seppe che nel film io avevo pugnalato una donna da trivio, davanti al portale di una chiesa, mi disse: che cosa? Un film ha pugnalato una donna davanti a una chiesa, è stato dato un premio. Madonna, il cinema che cos'è? Figlio mio, hai cominciato male. Non vedo come usava i premi mio padre per fermare le porte. Una volta mi ricordo che col nastro d'argento eravamo a Fregene, dico: ma papà, quello è il nastro d'argento, aveva vinto il primo nastro d'argento nel 49 per il primo film, Vanità, che era un film, adesso mi ricordo di date, perché io sono andato nel 70, e lui stava schiacciando le noci col nastro d'argento, scheggiando, rovinando. Del rapporto di Walter Chiari con i soldi ne parlano l'autore televisivo Enrico Vaime e il biografo di Chiari, Tatti Sanguinetti. Era uno sciupone, per questo era simpatico. Non era un alchimista, non era un risparmiatore, non era avaro di sé, era fin troppo generoso, scialacquatore, sì, scialacquatore. Walter pensava cattolicamente forse che c'era qualche cosa di immeritato, forse di ingiusto nella pioggia di denaro che gli era caduto addosso. Walter era stato l'uomo più pagato del cinema italiano per fare tre pose. In bellissima di Visconti, gli veniva fatto nel 49-50 un contratto di 15 milioni di allora, aveva guadagnato somme favolose e favolosamente le aveva regalate. Guardi, io voglio che mia figlia sia la più raccomandata di tutte. Deve fare il provino e dopo dormo tranquilla. Ma gli ho già detto, il provino a sua figlia è come se gliel'avessero già fatto, è una cosa sicurissima. Soltanto che dipende da lei, insomma, è semplice, no? Ho capito, sa. Sa come dimmo a Roma noi? Mm? Non pi se non dai. Sa che lei, oltre che simpatica, è anche intelligente. Vero, ma l'hanno detto tutti. Quando girò Bellissima con Visconti, Visconti gli faceva fare fino a 25-30 ciak per una battuta. E lui ebbe una volta una reazione terribile, cioè dopo il trentesimo ciak vomitò. Proprio per, gli era presa un blocco allo stomaco, perché non ce la faceva ripetere, cioè non era, non voleva fare quel mestiere. Ma il cinema ha vampirizzato Walter Chiari. Walter Chiari era più forte del cinema. La vita di Walter è il soggetto, è il motore iniziale dei due film principali della storia della metà del secolo del cinema italiano. La dolce vita parte da un cazzotto che Walter Chiari cerca di dare a Tazio Secchiaroli, che con un punteruolo ha fatto bucare due gomme di una ruota che la MGM italiana ha messa a disposizione ad Ava Gardner, che lo accompagna quella sera. Ma la dolce vita nasce da questi racconti che Secchiaroli fa a Federico Fellini, di cui questo è il più mitico, il più principesco, e lo ritroviamo nel film. Alza un momentino la testa, ma che c'è, se ne va? Dice Robert, avanti, che c'è? Rocco e i suoi fratelli, che cos'è se non la storia di Luchino Visconti che conosce una famiglia di pugliesi che sono immigrati a Milano e che fanno la boxe, in cui c'è un ragazzo straordinariamente bello con un ciuffo intelligente sulla testa che strega tutti gli uomini e le donne che incontra. Ecco, Walter Chiari non fa il cinema, ma ispira qualche cosa sulla La dolce vita e Rocco e i suoi fratelli contemporaneamente. È un ciclone di vitalità che non può soggiacere alle misere regole del tempo e della luce del cinematografo. Sordi aveva ha detto una cosa che mi è dispiaciuta perché era vera. Walter Chiari aveva il cinema in mano. Nel 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, poi se l'è lasciato scappare. Il giovedì è bellissimo e Risi costruisce su Walter questa storia, questo padre che ha questo figlio solo per poche ore alla settimana e deve renderlo felice, lo fa salire sulla giostra, gli costruisce un mondo di fantasia. Posso esprimere l'ultimo desiderio? Sì, Johnny. Andiamo al cinema. C'era qualcosa del giovedì nella vita reale, le cose migliori del giovedì quando lui diverte il bambino. C'erano amplificate a mille nella vita privata. E adesso che ho un figlio per gioco nel cinema, quando rientro a casa e trovo i miei libri, i miei giochi, le mie cose, le mie telefonate, i miei amici, sento che in fondo mi manca realmente quello che lascio per gioco e che trovo per gioco nel cinema. Cioè, mi piacerebbe avere un bambino. È un figlio, a Walter Chiari arriverà davvero nel 70, ma nel momento peggiore della sua carriera. Il 22 maggio la polizia arresta Walter Chiari con l'accusa di consumo e spaccio di cocaina. Un arresto clamoroso che finisce sulle prime pagine di tutti i giornali, che arriva come un fulmine a ciel sereno in una carriera che sembrava oramai inarrestabile. Pochi giorni più tardi, l'8 giugno, mentre Walter Chiari è in isolamento nel carcere di Regina Coeli, nasce il suo primo e unico figlio, Simone. Ma per molti, come per Tati Sanguinetti, l'arresto di Walter Chiari è stata una mossa studiata a tavolino. E non l'ho visto nascere. Io ero a Regina Coeli, in quello che si chiama isolamento. E un secondino ho detto, sei stato un figlio maschio, Walter. Non sapevo chi dirlo, con chi bere, con chi brindare, con chi piangere, con chi ridere, con chi vantarmi, con chi scherzare, ce l'ho fatta. Perché Walter Chiari viene carcerato un'alba del giugno del 70, tre o quattro giorni prima che si voti e tre o quattro giorni dopo che il ministro degli interni della Repubblica, l'onorevole Vicentino Mariano Rumor, in piena strage di Stato, dichiara: non guarderemo in faccia a nessuno. Vissi per un mese nella cosiddetta camera di isolamento, che era una specie di cabina telefonica dove non potevo neanche aprire le braccia per fare ginnastica perché mi sarei rovinate le nocche, per non inquinare le prove. E avevo 15 minuti al giorno di aria in un cortiletto per lavarmi le mutande e respirare l'aria. Non sono in grado di dimostrare quello che vi dichiarò, ma di cui sono assolutamente certo. Walter Chiari è stato sacrificato sull'altare della strage di Stato. Sono passati 6 mesi dalle bombe e c'è un uomo che ha un antico vizio, che è un bersaglio ideale, che è bello, che piace alle donne, che è ricco, che ha successo, che ha fatto la boxe, che è figlio di un commissario di PS. È l'ideale, ha i requisiti ideologici, la fisionomia ideale dell'uomo delle destre. Quest'uomo delle destre, quest'uomo di successo, il conduttore della canzonissima del 68 che scherza sull'influenza di Mao, è Walter Chiari. In Italia c'è, non solo in Italia, da anni c'è il vezzo di coprire magagne politiche, sociali, sbattendo un mostro in prima pagina oppure distogliendo l'attenzione. Walter Chiari è accusato di aver acquistato insieme ad altri un chilo di cocaina, di averne fatto uso personale e di averne ceduto parte a terzi. A processo viene prosciolto dall'accusa di spaccio, ma rimane in piedi quella di consumo personale. Così Elsa Martinelli e il figlio Simone. Io non l'ho visto, cioè quando io l'ho incontrato nei primi periodi della nostra amicizia, delle nostre frequentazioni, nessuno mai ha pensato che Walter si drogasse, parliamoci chiaro. Poi più tardi si sapeva, perché si sapeva attraverso i suoi segretari, si sapeva attraverso le persone, soprattutto quelle che ne approfittavano, perché parlavano, perché si arrivava in ritardo, facevano battute. Era mio padre, era indifeso, sono molto indifeso. Con la prigione e lo scandalo, Walter Chiari esce inevitabilmente dal giro. Il giorno in cui viene arrestato, stava andando a registrare una puntata di Speciale per voi di Renzo Arbore. Ma la Rai, dopo l'arresto, cancella tutti i contratti. Lo solleva dagli impegni presi. Anche i caroselli che lo vedevano protagonista vengono cancellati. Per 2 anni tutte le porte verranno chiuse. Ma poi, nel 73, una nuova occasione. E l'appuntamento, un nuovo spettacolo del sabato sera con Ornella Vanoni. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma Walter non ce la fa a tornare quello di prima. Ha perso lo smalto e la sintonia con il pubblico, in particolare con i giovani che negli anni dell'impegno politico sembrano poco interessati alla sua comicità leggera e disimpegnata. Strano appuntamento, è stata una pazzia. Walter Chiari è ormai uscito dal giro che conta. Per 10 anni vive in una sorta di buco nero, ma continua instancabile a fare serate, qualche film e televisioni su emittenti commerciali. Nel 1980 conduce Ciao, come stai su Antenna 3. Però lo pagavano. E lui per poter andare avanti col suo modo di vita scellerato aveva assolutamente di denari. E quindi faceva serate. Ma sai, Walter aveva le mani bucate, era generosissimo. Molta gente ha approfittato di Walter portandogli via praticamente tutto. Io credo che si sia adattato a dover fare certe cose. E proprio per sopravvivenza. Poi certo la malattia, chiamiamola così, quella non l'ha certo aiutato a riemergere. Mio padre, se non ha lavorato anche dopo, quando abbiamo parlato degli 70, dopo, quando era in ginocchio, se non è riuscito a tirarsi su era anche per il suo stile di vita, non tanto perché molta gente gli ha chiuso la porta. Ma il periodo sfortunato di Walter Chiari sembra non arrestarsi mai. Nel 1984 è di nuovo preso di mira. Il pentito Giovanni Melluso lo accusa di traffico di cocaina. Tutto si basa su una fotografia che li ritrae insieme. È lo stesso imbroglio che travolge Enzo Tortora. Anche questa volta Walter Chiari verrà prosciolto e con lui la sua compagna Patrizia Caselli, ma ancora una volta le vicende giudiziarie lo segnano nel corpo e nello spirito. Ma Walter Chiari è un pugile che non getta la spugna. Negli ultimi anni l'eterno ragazzo del cinema, della televisione, del palcoscenico finalmente fa i conti con la sua età. È il suo ultimo giro, ma anche la sua ultima partita con il successo. E Chiari se la gioca a carte scoperte con un ruolo drammatico e intenso nel film Romance di Massimo Mazzucco. I got rhythm, I got music, I got my son, who could ask for anything more? Il film approda a Venezia, ci sono le premesse per un premio. Walter si illude, ma si ritrova al momento del verdetto le ruggini, le invidie, le antipatie. Oh, quella volta mi chiamò da Venezia. Simone, vieni su, prendi l'aereo, mi faccio prepagato, corri su perché forse tuo padre sta dando il premio. Premio per il migliore attore. Carlo Delle Piane, per il regalo di Natale. Oggi ha strappato per poco la medaglia a Walter Chiari, che è bravissimo nel film di Mazzucco, Romance. Forse per noi un ex aequo era meglio, comunque lode al bravissimo Carletto Delle Piane. È stata una storia molto da Walter Chiari, da uomo che va in alto, cade e poi gli vogliono dare la maggiore onorificenza italiana in ambito cinematografico, ma poi non penso che sia, che se avesse vinto il Leone d'Oro avrebbe aggiunto o tolto niente, anzi sono sicuro che non... Walter Chiari va a vivere in un residence alla periferia di Milano perché davanti c'è dell'aria pura, c'è un campo e sotto c'è una palestra. Walter, ed è questo il segreto che gli ha consentito di convivere 45 anni col suo vizio, era uno sportivo, era un drogato sportivo. Io non ho mai visto vecchio mio padre, però c'era una luce diversa negli occhi. Negli ultimi 2-3 anni io lo vedevo, infatti sono andato a vivere a Milano. Guarda, disse a mia madre, guarda, vado a vivere a Milano. Ah, dove vai con tuo padre, quello è matto, qua su giù. Disse una cosa molto brutta, sento che se ne sta andando, sento che è l'ultimo. Per cui io dico, continuiamo a parlare finché vogliamo, però risparmiamo un po', che non è male, eh? E buonanotte, eh? È morto a Milano Walter Chiari, uno degli attori comici più bravi e più amati dal pubblico. È stato trovato nella sua stanza d'albergo e ancora non si conoscono le cause della morte, che però sembra causata da ictus o infarto, soffriva da tempo di cuore. A me mi chiamò la sera stessa, non vi preoccupate, è tutto sonno arretrato, sulla lapide, era questo che voleva far scrivere, incidere. Morto anche bene, davanti al televisore, così, tac, spento, fine della trasmissione.